Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Salutiamo i nostri ragazzi backside che sono tornati a trovarci, backside. Che bella evoluzione che ha questo programma, pensate voi ragazzi, accomodatevi, sbevazzate qualcosa giustamente, perché l'evoluzione di questo programma, anche questo gruppo che è venuto a suonare alla cena, a dimostrazione che si mangia davvero bene e che quindi possiamo. Ragazzi, sarà una settimana anche questa fondamentale, il Bacco.it, per vedere tutto quello che riguarda la cena dei regini, tutti gli eventi che comporteranno questa settimana importantissima e anche le successive, ma un evento particolare che mi sta particolarmente a cuore e che metterei per primo per il suo significato è la raccolta dei fondi, perché ogni anno in una data imprecisata, intorno al 21 maggio, accade una cosa che per molti è necessaria, importante, ma per altri è banale come un compleanno. Allora io comunque chiedo sempre, loro lo sanno, anziché spendere 2 euro per una cineseria che questi sciagurati mi regalerebbero, invece mettiamoli per dare una mano a qualcuno che ha bisogno. Già sul sito del Bacco.it trovate il riferimento, e quest'anno ho deciso di segnalare come iniziativa benefica a cui dare una mano ai Food Share. Ai Food Share cos'è? Sono dei ragazzi che comunque ci permettono alla fine di ogni cena, cosa che spesso diciamo qualcuno si dimentica, di quelli che ci ascoltano da casa, quello che resta, comunque le donazioni in cibo vengono condivise, e la gente di Reggio e di Messina che ha bisogno, che è un po' nei guai, può venire e farsi una cena assieme a noi, praticamente a casa sua, liberamente, totale privacy e totale accessibilità a questo servizio, quindi è una cosa molto bella. Questo è grazie ai Food Share, e quindi quest'anno, oltre a un applauso, gli daremo questa cosa. Quindi se mi volevi regalare la calamita da frigo, se mi volevi regalare il coso, io volevo regalare il caffè della Colombia, però ho visto che lui gli regala dentro. Aspetta, ci sei detto? No, scherzo. Se mi vuoi regalare un bellissimo tappetino del mouse con i seni finti, non farlo e dai le 2 euro ai ragazzi del Food Share, che è molto meglio. Finita questa piccola parentesi, ragazzi, continuo il workaround, stiamo rivedendo tutti i manuali che compongono l'ARS, questo regolamento di gioco di ruolo da tavolo e dal vivo, e continuiamo a giocare e a provare tutti insieme con grande, tra l'altro, gusto, perché sono serate veramente particolari che passiamo di giocare intorno a un tavolo. Guarda, marcherei particolari. È molto molto particolare, che le storie sono infinite che si creano grazie a questo regolamento. Questa settimana in particolare avremo come appuntamenti legati all'ARS la domenica il live di Free Age of Camelot, quindi in ambientazione fantasy medievale. Ognuno sempre al suo personaggio, viene qua, lo interpreta liberamente, quindi è una cosa molto molto semplice da fare, accessibile a tutti. Tema medievale fantasy, quindi questo villaggio, diciamo, medievale fantasy, che verrà sconvolto ulteriormente da qualche accadimento. Abbiamo visto la sessione scorsa particolare, già, perché comunque è tornato un elemento scatenante degli scorsi anni di live. C'era un drago che poi non è diventato drago e abbiamo salvato il mondo. Lo salveremo anche questa domenica, ma prima, ragazzi, per chi ha bisogno di un'introduzione del materiale, oppure semplicemente vuole venirsi a guardare un film assieme a noi, venerdì faremo il pomeriggio creativo. Cioè tu vieni qua, mi dici: Bacco, ho bisogno di una spada, di una tunica o di un coltello per il mio, di uno scettro, qualcosa, oppure un altro elemento, un diadema solare per il mio personaggio, vieni qua e lo facciamo assieme, passi un pomeriggio con noi. Così la sera proiezione dei film The Gamers, per restare in tema, quindi una serie di The Gamers 1 e 2, quindi dei film leggeri, molto, che riprendono il tema. Però vorrei ricordare che comunque grazie a questo si può anche vedere come si costruiscono le spade, di conseguenza si può curare, che sono anche molto sicure. Quindi sbagliate personalmente da me e testate su uno di loro. Infatti cioè, è per questo che nei live scorsi eravamo tanti, adesso siamo che qualcuno ha esagerato col ferro, ma non diciamo No, ovviamente no. Ragazzi, tutto in massima sicurezza. C'è la chiocciolaback.it per commentare questa puntata. Noi torniamo con l'ospite di questa puntata dopo un piccolo spazio musicale. Vai panda. Vai panda. Bau bau panda. Registriamo subito il prossimo. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, cena dei regini, presentiamo adesso l'ospite, li ho incontrati nelle settimane scorse, siamo andati a questo evento legato, diciamo, all'ambiente Metal Lab ed è stato bellissimo incontrare anche loro. Loro vengono da Catania, avevano tante cose da raccontare. Ragazzi, guardate questo video perché anche qui è successo di tutto. Loro sono Jens & War da Catania e noi ce li guardiamo assieme. Vai col video. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Siamo in compagnia dei Dancian War, una band formata nel 2011 che qua con noi ci è venuta a trovare. Iniziamo a parlare con loro, iniziamo a raccontare il vostro progetto musicale, come nasce in poche parole e come definireste la vostra musica. Allora, noi in pratica alla fine facciamo heavy metal. Uh-huh. Vabbè, ci rifacciamo molto, tipo death metal fine anni 80, inizio anni 90, i Death, gli Obituary, The Side, Morbid Angel, eccetera, però il fulcro alla fine è heavy metal, capito? Perché c'è doppia cassa, il growl, facciamo quello, quel cazzo di fottuto heavy metal. Quello più classico, sì, diciamo, sì, ok. Diamo subito un riferimento a internet a chi sta seguendo l'intervista e vi vuole venire a trovare sul web. Perfetto, semplicemente www, quelle cose là, Facebook, la sbarra, The Ancient War. The Ancient War. Poi c'è il canale YouTube. Reverb Nation, le solite cose. Perfetto. Quindi importante memorizzare The Ancient, esatto. War. La vostra esperienza artistica è comunque avuto una svolta nel 2011 con il passaggio all'etichetta discografica. Che importanza ha per un artista il sistema discografico ai tempi comunque di internet, di questa realtà qui? Sì, allora è molto importante trovare un'etichetta perché ti mette all'interno del mercato in una maniera abbastanza seria, a meno che non si voglia rimanere piantati a terra nelle proprie radici, diciamo. Noi personalmente abbiamo avuto anche l'aiuto all'inizio da parte di un nostro amico che si chiama Fabrizio, che ha avuto questa etichetta bolognese che si chiama Armed God Records, e diciamo che tra l'altro è lui il cantante di un'altra mia band, quindi c'era un rapporto molto diretto. Molto sì, diretto, e amante dell'assoluto heavy metal degli anni 80, heavy metal grezzo, eccetera. Quindi quando ascoltò i nostri pezzi è rimasto colpito e ci ha proposto appunto di promuovere questo nostro primo disco, che diciamo ha avuto un buon riscontro all'interno del feedback mondiale, diciamo, mm-hmm. perché è piaciuto molto. Riding on the Hills of Death, primo disco. E poi da là comunque avete continuato, sì, l'esperienza, sì, sì. Quindi è abbastanza importante, diciamo, che la formazione tra l'altro di questo disco è completamente diversa da quella di ora. Loro, Gianni e Gaetano, sono dei nuovi membri assolutamente degni di questa band, che diciamo ha avuto anche qualche problema di line up in passato, abbiamo avuto qualche cambiamento abbastanza notevole. Il primo batterista ha abbandonato dopo il primo disco, idem il chitarrista, e poi è subentrato Gianni, che ci ha dato una forte mano a livello proprio di impatto chitarristico, certo. Diciamo. E Gaetano dietro le pelli, certo. E poi Gaetano, tra l'altro, io sono andato a vedere tanti anni fa il loro concerto, io non ero il loro batterista, penso. Sono andato a vedere un loro concerto e per me, cioè, li vedevo come una meta, loro come altri gruppi, ma in genere non immaginavo mai che io potevo essere il nuovo batterista dei Ancient War. Quindi sei passato dal fan, diciamo, tra molte virgolette, a la ufficiale. Tra l'altro abbiamo visto anche quelle altre formazioni che abbiamo intervistato, che questo è il discorso del cambio delle line up abbastanza frequente, perché come dicevo è un po' come una convivenza con una fidanzata, che alla fine bisogna anche trovarsi nel tempo, giustamente. Purtroppo la verità è che molte volte nelle band più si è e più problemi ci sono. C'è la classica line up perfetta, ideale, è la formazione a tre. Però molte volte è impossibile, molte band richiedono appunto il supporto di una seconda chitarra, che è fondamentale. Certo, per il vostro genere. La vostra esperienza musicale nasce e cresce comunque in quel di Catania. Sì. Cosa avreste da dire dal vostro punto di vista sulla scena musicale italiana, nel vostro ovviamente settore, e cosa manca che potrebbe aiutare nuove band a crescere? Allora, questa è una domanda molto complessa, perché bisognerebbe dilungare molto il discorso. Abbreviando un attimo, il problema italiano è... Allora, intanto partiamo dal presupposto che in Italia io penso che ci sia una scena veramente ottima, specialmente nell'ultimo periodo stanno emergendo delle band veramente interessanti, sia nel panorama black metal e non. Io penso che internet stia rovinando un po' quello che è la divulgazione della musica. E perché te lo dico? Perché da un lato può sembrare un paradosso, perché pensi questo sta dicendo una cazzata, invece no, perché la gente ascolta musica su internet e si rompe i coglioni ad andare ai concerti per non spendere una cazzo di euro, un cazzo di euro, cioè ma è veramente vergognoso questo. E te lo dico perché noi fino alla settimana scorsa abbiamo suonato a Catania e ci aspettavamo che molti amici venivano, mentre che tra l'altro fino a mezz'ora prima ci avevano detto che venivano e poi non si sono fatti vivi. Questo ti fa pensare che il supporto è una parola che va messa molto tra virgolette, purtroppo, perché è una parola grossa che ormai è nella bocca di tutti, e per me le parole se le possono ficcare nel culo, te lo dico con tutto il cuore, perché aggiungerei trovi supporto da gente sconosciuta, assolutamente sconosciuta, giovani, gente della mia età, perché va là, ascolta la musica, ascolta heavy metal, dice cazzo, questo è un gruppo heavy metal, che poi sia classic metal, thrash metal, death metal, black metal, cioè dice finalmente sto ascoltando metal. Nel 2014, diciamo che e trovi gente assolutamente sconosciuta che ti supporta, sì. Che muove la testa, ti ha i capelli, muove i capelli. Cioè, il metallaro è una razza che veramente negativa, allucinante. Quindi il supporto che voi trovate è più nelle persone che si avvicinano in maniera fresca, diciamo. Il nostro supporto è a chi piace l'heavy metal, ci supporta, a chi non piace l'heavy metal non ci supporta. Una cosa, io ritornando anche a quello che ha detto Riccardo su internet, il discorso di internet è un'arma a doppio taglio, perché internet ti può veicolare in un attimo, tu metti una cosa in tutto il mondo, la vedono, ma una volta, come dire, c'era la cassettina rovinata, vecchia, che ti passavano i grandi del primo dei Dayside, e questo è uno. Quanto al discorso del supporto e di quello che dicevano Fabio e Riccardo, di una serata che noi abbiamo fatto a Catania, dopo che la band veniva da più di un anno e mezzo di assenza, anche per i cambi di formazione, il supporto c'è stato da parte delle nuove leve, di persone che non ci aspettavamo che venivano, altri amici, come ha detto Riccardo, non sono venuti. Perché mi soffermo su questo? Perché quello che ci vuole nel movimento è una vera fratellanza. E secondo me il metal, per una cosa di questa, può imparare dall'hip hop, per esempio, dove c'è molta più fratellanza, dove vanno a farsi quei concerti e si supportano, magari dice dimostrami quello che stai fare, ma non andare a un concerto. Anche se aggiungerei una bastardata, un po' cagare l'hip hop. Vabbè, però, no, però... era un esempio per dire che mi fa cagare l'hip hop, mi fa cagare pure a me, però era un esempio per dire che nel metal a parole c'è la fratellanza, c'è il supporto, tutti amici, tutti, ed è molto falsa questa cosa. Ecco, io allora, questo voglio tra dire. L'altro, è molto falsa. Allora, questa è una domanda che hai fatto, che può avere tantissime di quelle risposte che possiamo stare hai qui a parlare altre un... due ore. Povava. Un'altra cosa che aggiungo, che è non andate ai concerti. a rompere i coglioni mettendovi là ad aspettare la gente che sbaglia una nota. Andate per divertirvi, ve lo dico proprio seriamente, andate a divertirvi, andate a pogare, andate a fare in culo, non lo so, cioè non lo so ragazzi, cioè, siate metallari, il metallare è questo cazzo. Ok, quindi è vivere con più semplicità, sì, diciamo, sì, la musica e creare quell'idea passione, di fraternità. Tra l'altro, comunque la scena metal siciliana dal punto di vista del livello tecnico, secondo me è di altissimo livello. Assolutamente. E anche italiana, di altissimo livello. Ma non intellettuale però. Non intellettuale. Manca quello. I ragazzi hanno tantissime cose da dire ed è bello anche ascoltarli, ma... ragazzi, ecco, un momento del tutto vostro, una domanda che faccio comunque a tutti i miei ospiti che vengono in trasmissione. La vostra band nasce e cresce a Catania, che è quel sud che è anche simile alla nostra Reggio Calabria. Immaginando gli Ancient War sindaci per un giorno di una città italiana. Allora, intanto creare degli spazi per supportare tutti i ragazzi che suonano, gli spazi anche comunali, sovvenzionati dal comune, e cercare di dare, diciamo, il modo di esibirsi, di suonare a tutti, perché ci sono pochissimi spazi nelle città dove, ma non solo per andare a ascoltare o suonare metal, ma parlo di tutta la musica. Ci sono pochissimi spazi dove i ragazzi e i giovani si possono esibire, e poi lo sappiamo che c'è il problema dei gestori dei locali, che quello è una cosa. Questo. E poi un'altra cosa, non lo so, eliminerei tutte le strisce blu perché hanno rotto il cazzo. ovunque. Questo. Non devo dire a me che ieri mi è arrivata un'altra contravvenzione, ma che palle, a parte questo, ragazzi, noi ringraziamo i Dance War per essere stati con noi, grazie, per aver dedicato voi, del tempo. Grazie a voi. E noi ritorniamo dopo un piccolo spazio musicale. Impossibile cambiare la notte qui, impossibile cambiare. arriva sempre quando non lo aspetti più. Ragazzi, i Backside. Bello acquisto, ragazzi, andiamo sempre a migliorare. La cena dei regini, bentornati. Ilback.it per commentare la trasmissione, cena @ilback.it anche per commentare le prodezze dei Backside, prodezze musicali. Ma adesso passiamo all'angolo adorato soprattutto nelle zone giapponesi, cinesi, perché sono quelle che spesso, diciamo, prendiamo di mira. Abbiamo un cliente anche stasera in quelle zone, l'angolo delle notizie dalla strada. Perché? Perché tu che guardi non hai il tempo di andare a vedere le notizie più strane, quelle così. Allora lo facciamo noi per te, ti dedichiamo questo spazio e le commentiamo assieme. Perché ricordiamo Panda, dall'alto soprattutto della sua preparazione in film giapponesi e simili, è disposto a tutto. Ragazzi, innanzitutto la notizia importantissima, ne abbiamo parlato l'altra volta. Reggio Calabria, questa città che per fortuna è immaginaria del sud, no, lo diciamo per i bambini perché poi si impressionano. Reggio Calabria è una città immaginaria del sud Italia che non esiste, però si è manifestata. No, Reggio Calabria si è manifestata nella figura di un gruppo di persone che in visita, quando Renzi è venuto in visita a Reggio Calabria, i regini si sono manifestati. Tra tutti i problemi, i regini hanno preteso a gran voce di risolverne uno fondamentale, importantissimo, per essenziale. L'abbiamo detto, il regino non pensa ad altro, e quindi hanno chiesto, premesso, la regina in Serie A, anzi la regina, perché un regino non lo farebbe mai, tu i regini lo farebbero, cioè, non lo farebbero mai i regini. No, non abbiamo avuto i diritti per utilizzare un nome, quindi comunque Reggio Calabria, la città immaginaria, hanno questa squadra di calcio, uno sport in cui 11, ricordiamo, 11 miliardari in pantaloncini sono costretti a correre dietro un pallone. Ragazzi, voi ridete perché giustamente dite è una città immaginaria, non esiste, non è giusto scherzare, se fosse reale, cioè non fosse reale sarebbe un problema. Pensate se esistesse questa città, veramente. Fortuna che non esiste. Nah, fortuna. Però si sono manifestati, ragazzi, si sono manifestati. Almeno quindi, per qualche motivo sono Io sempre mi trovo disponibile, quando un regino si manifesta dobbiamo dedicargli uno spazio di notizie alla strada. Assolutamente si pretende. Continuiamo ad andare avanti, torniamo nel mondo reale più o meno, perché lei si chiama Lindsay, è una madre spaventata per un problema di cui abbiamo parlato spesso anche durante la cena. I topi mutanti vogliono mangiare suo figlio. E questo è il problema di questa ragazza. Quindi è arrivato Splinter, tra poi tanto grigio. Ragazzi, Lindsay Wilkinson ci dice che i topi mutanti gli hanno prima invaso casa e poi volevano mangiare il figlio. Tu torni a casa dopo una giornata di lavoro così e ti trovi il topo con la sigaretta. Uè zio, che c'è da mangiare? Cos'è quel fagottino che hai là? Io mi sono immaginato invece il maestro spinta della Tartaruga Ninja, che era un topo mutante. Ma quello è anni 80 ormai. È morto. Poverino. Ah, questo spoiler. Ma come, ragazzi, abbiamo detto niente spoiler e poi guarda tu. E comunque lei è questa madre che ormai dice l'odore è insopportabile, i topi hanno invaso casa sua e vogliono mangiare suo figlio. Ma scusa, vorrei sapere come fa a sapere che è un topo mutante, cioè non è un topo normale. Cioè quelle cose. Perché sono giganti e le hanno letteralmente invaso casa, cioè hanno creato. Hanno creato una società all'interno della casa. Per cui questi topi gli vivono. C'è una che questo no. Ce n'è uno che sposta i metalli, un altro che si trasforma. Uno che Londra, Inghilterra. Ma sono quei topi di 70 centimetri. Ce n'è uno che lavora in un ristorante. È uno scandalo perché nei pressi degli scarichi del McDonald's, vicino al Tamigi, c'erano dei topi che erano 5-6 volte le dimensioni normali. Esatto, infatti ne abbiamo parlato una volta. Sono loro, noi ne parliamo già da un po'. Topi che resistono ai veleni. Sono topi che resistono ai veleni. 70 cm non completa la coda. E praticamente sono difficili da ammazzare. Hanno proprio da loro. Devi sparargli in testa. No, è più. Sì, no, è in più, voi scherzate, è terribile, perché avevano scoperto una medicina per rendere i muscoli, praticamente per ringiovanire i muscoli, i tessuti viventi, però c'è il problema che funzionava solo coi topi. Quindi anche questo si può agganciare al discorso, ma ragazzi, niente paura, perché a questo problema ci pensa ovviamente l'America. L'America, questo paese che è... Non voglio commentare l'America, ma è reale, è molto pacifico. E loro si stanno preoccupando dell'apocalisse zombie e già hanno un piano del Pentagono contro l'apocalisse zombie. Questo documento, che si chiama CONOP 8888, è comunque un piano di sopravvivenza che permetterebbe di sventare la minaccia zombie e aiutare qualsiasi popolazione del mondo, compresi gli avversari bellici tradizionali, quindi immagino la Russia e via dicendo. Quindi pensa, c'è un tizio in America pagato per elaborare un piano anti-zombie. Dici cazzo. Ma alla fine non è che c'è molto a elaborare, se non sanno neanche con che cosa combattono, perché comunque Senti, i zombie vanno in giro, mangiano e se rispari in testa muoiono. Come te? No. Terribile, ma ragazzi, andiamo avanti perché giustamente sono argomenti tetri, ma sempre da Londra una notizia ancora più inquietante, se possibile. Lei è una bambola in vendita su eBay a sole 5 sterline. Ha già 10 potenziali acquirenti, c'è un piccolissimo dettaglio che la rende unica. Questa bambola è indemoniata. Ah, ok. È indemoniata. Quindi io già sto contattando perché la voglio ospite, ovviamente, della cena. Ragazzi, non posso perdermi una cosa del genere. La bambola sarebbe in grado di svegliare con graffi sul volto e lividi sulle gambe le persone che la ospitano a casa. E durante la notte riesce a fare anche dei piccoli versi, delle piccole urla. Quindi tu la compri, la metti là. Cioè, no, perché tu. Assolutamente, tu la compri, la tieni a casa, lei sta là, la notte si alza e non lo so, ti sbrindella un ospite, ti fa una cosa. Ragazzi, ho 5 sterline, è accessibile. Era voi. Subito, ma facciamo questa. Comunque non ci sono più le bambole come Barbie, Niente, non sono proprio cambiate queste bambole. Ma ti evolvono le bambole? Si evolvono. Poi sono capace di uccidere. Di qual è? Qual è il problema? Perché? Le bambole si evolvono perché, ragazzi, sono diverse da un comunque bambino. Chi non vorrebbe un giocattolo simile a casa? Secondo me è fantastico, anche perché fantastico. Tu hai una serata morte, eccetera, quale compagnia migliore di Chucky che è là seduta sul divano? Tipo, bello, come stai? C'è lei che si pulisce il coltello, tutto a posto, ragazzi, tutto a posto, non ti preoccupare. Caspita. Bene, fai il caffè e poi torna qua. Assolutamente, ragazzi, sono i tempi che cambiano, i tempi che cambiano. In America grande moda ultimamente, soprattutto adesso che è il periodo comunque di esami, c'è cioè questa l'utenza scolastica, eccetera. Pensate che in America sono talmente avanti che gli esami si possono annullare se si raggiunge un certo numero di retweet. Di? Retweet, cioè su Twitter. Sì. Se tu posti la richiesta di annullare l'esame e questa richiesta viene ritwittata, cioè ricondivisa un tot di volte che stabilisce il professore annulla l'esame. È una specie di democrazia 2.0. Cioè pensate... Annulla l'esame che se l'esame è già fatto... No, lo deve comunque... Salta il compito dell'esame. Il retweet dei gestori solitamente sono intorno ai 1500, quindi neanche tantissimo. No. Comunque una scolaresca americana poi ce la può fare. Pensa che bello. Cioè, c'è l'evoluzione. Cioè... Una volta tu stavi là... Hai 50 anni che ancora devi fare gli esami di quinta. Una volta tu stavi là, li interroghiamo, e tu stavi là, non mi interrogare. Ma devi mettere lo sguardo, perché ti incroci lo sguardo. Tu hai provato tutti i poteri Jedi, tutti i poteri cominciano a fare. Non sono la persona che puoi interrogare. Non mi cercare, non sono io, eccetera. E poi ti beccava, invece là in America basta twittare e poi far... Far rinviare. Se non raggiungi la soglia, niente. Vabbè, se dice 1499. Il mio professore va a vedere chi ha tentato la prima volta. Giusto. 3. Se non raggiungi la soglia, fai anche cattiva figura, sì, con gli amici, perché dice: ah, dai, non hai raggiunto 1500 tweet, ragazzi, ma comunque questa... Io avrei 1500 account. È un'idea. Guarda subito, la scuola americana, lezione italiana, ti apri 1500 account subito. Bravo, bravo, bravo, 1500 account è... potete farlo. È un po' più difficile invece seguire la moda degli adolescenti cinesi, un po' più, come dire... È una notizia che si commenta quasi da sola. Perché... Io stavolta non parlo. No! A qualcuno piace da tanto tempo, perché in Cina comunque c'è ultimamente questa moda che, giustamente, essendoci comunque i problemi là di gestione degli animali e degli animali da compagnia, quindi in Cina gli adolescenti portano a spasso la verdura. La verdura messa al guinzaglio e portata per la strada è molto di moda. Molto trendy. Come carini! Ragazzi, ormai il cucciolotto è passato di moda, invece tu prendi questa bella lattuga, gli metti un guinzaglio e la porti a spasso. Penso che troppe cose di cui ti stai a chiedere perché. No, ma ragazzi. Bravo, perché tra l'altro non è solo portarla a spasso, la lattuga deve essere vestita, lavata, portata a spasso a fare i bisognini oppure una semplice passeggiata. Cioè, deve essere anche nutrita. Devi trovare qualcosa di compatibile. Non lo so, sarà avrà delle intolleranze. Naturale. Di questi tempi. Un bambino cinese che se la... Hai fatto la cacca lì, ma come ti permetti? E invece era attiva la tuchina. Vedi, pensavo fosse un chihuahua, invece era un cetriolo, come si può dire in Cina. Ma ragazzi, andiamo avanti con una notizia abbastanza scottante, ma per qualcuno paradisiaca, perché avvicinandoci comunque alla zona, diciamo, più hot delle notizie alla strada, iniziamo parlando di maiali, ma non quelli là umani, cioè i maiali, proprio veri e propri maiali. Si chiama Pig Beach ed è comunque una isola delle Bahamas che è stata invasa totalmente da maiali che la abitano. Il 100% della popolazione sono questi maialotti che che vivono liberamente in questa isola. Ragazzi, io lo trovo fantastico, cioè praticamente hanno scoperto, guarda, quindi noi che cammina, là sì, là sì, il maiale ha conquistato l'isola, ha la sua comunque ai suoi, anche là ha creato la sua società maialesca, diciamo così, e quindi si sono stabiliti. Grande mistero per come sono arrivati là, e pare che siano stati dei dei marinai che comunque passavano da là, pensavano di mangiarli, invece ne hanno lasciati due liberi, sono riusciti a scappare da là. Giustamente hanno diciamo fatto i maiali, porcellini. Alle isole di Bahamas si sono ritrovati questa situazione carina. Beh, scusa, sei lì con la fidanzata alle Bahamas. Questo gregge di maiali che passa così, cioè questa spedizione. No, ma io parlo dei maiali. Però da immaginare, cioè immagina una spiaggia tutta rosa. C'era un isolotto, non mi ricordo se in Cina o in Giappone, che era tutto abitato da gatti. C'erano due abitanti umani. Sì. Vedi, perché comunque funzionano, soprattutto il marinaio che era andato là, perché dice che l'aveva lasciati per poi mangiarli. Va là tipo la settimana dopo convinto di farsi questa mega grigliata, e invece, oh vabbè, dai, adesso cuciniamo! Ah! C'è questa invasione di maiali. Che l'altra volta non l'hanno mai più ritrovato. Ma è grigliata. Giustamente, ragazzi, giustamente. Adesso entriamo per concludere nella zona, diciamo, un po' più calda delle notizie alla strada, bollino rosso, perché ragazzi dobbiamo parlare di una notizia importantissima. Viene ovviamente dal grande prolifico mondo dell'arte, che non conosce mai sosta. Non c'è crisi, modo. Là non c'è crisi neanche del mondo dell'arte, ma ci sono delle professioni che funzionano più di altre. Quindi qual è la professione più ricercata all'interno dei film hard? Te lo sei sempre chiesto? Ha vinto, cioè automaticamente lo vedi l'artista al momento è molto invece no, ragazzi, c'è una grande sicurezza. No, perché all'interno dei film hard innanzitutto la meno richiesta è la figura della cheerleader, comunque è forse già visto, dai, già visto. Al quarto posto la poliziotta, perché si sa il fascino distintivo eccetera, la manetta anche, insomma. Alla terza posizione l'infermiera, perché si prende di cura del malato, eccetera, e dicendo. Poi tra l'altro noi, vivendo in una città particolare, abbiamo bisogno di fantasia sulla fantasia. Quindi la fantasia non solo dell'infermiera che c'è, ma che ti cura! Reggio Calabria. Al secondo posto, e questa mi ha sorpreso un pochettino, la babysitter. Perché? Cioè ha un particolare. Quante storie sono nate con la babysitter? Cioè questa ragazza. Ah, ok. Era l'idea. Questo silenzio. Ma ragazzi, alla numero uno, la professione più ricercata all'interno dei film hard, la Edwige Fennec ha insegnato ai suoi tempi, è la professoressa. La professoressa è rimasta dagli anni 60 al top di ogni classifica possibile, perché c'è questa idea di comunque forza maggiore, autorità, però anche... Ma professoresse di oggi, che sono gran parte vecchie, non sono... Non proprio. Se neanche ti viene questa cosa... Io ricordo quando stavo dicendo con questi 30 anni, quindi. Però giro. Sbagliato la classica, cioè. Ora ci arriviamo. Il fatto è che le professoresse moderne in Italia fanno certi video su WhatsApp che girano, che lasciamo stare. Quindi può essere. Ragazzi, altri mestieri che voi vorreste vedere in un ipotetico film hard, loro dicono il cameraman, giustamente, perché. Io non mi sarebbe preparato. Che faccio? La lattuga, perché tu dici un film un po' giapponese e per fare gli zoofili. È fantastico. La lattuga può avere un suo ruolo, no. Oppure una suora, anche una geisha. La suora è sempre una geisha. Che no, Abbiamo diversi la media giapponese. La media giapponese, ragazzi, quando le notizie serie non le commentate mai. Stai arrivando a dire. È lui che è. Perverso. Pensano che questo accomuna tutti. Questo qua trova tutti. La fittuaria. Lui sta già cominciando a sparare. Aspetta che le segno. La sedia. Ragazzi, questa è la notizia della strada. Noi torniamo con un piccolo spazio musicale. C'è una caccia del bacca.it per commentarle e magari dire quale mestiere vorresti vedere tu nel tuo film art ideale, perché non si sa mai nella vita, magari c'è anche qualche sceneggiatura interessante. A tra poco, torniamo subito con la cena dei regi. Debole, se guardo sotto, vedo la gente ridere. Ragazzi, backside. Un altro sole, quando viene sera, sa colorare. e i Backside, ragazzi. Quanto ci è andata bene stasera, cena alla grande, musica, voglio dire, ragazzi. È bellissimo. Ci è andata benissimo. Guarda, è divertente. È felice. Per me è felice, giustamente. Così è meglio che sia così. Giustamente, sì. Meglio che sia così, perché adesso introduciamo la classifica di questa settimana. La classifica è un po' particolare, ragazzi. Tocca specialmente il mondo femminile, che salutiamo, che rispettiamo, a cui vogliamo particolarmente bene, però perché ci sono, stai affinando qua? Perché ci sono comunque, dai, quelle 10 piccole bugie. Ah, ecco perché stai affinando. Che anche tu, ragazzina che a casa guardi la cena, hai detto qualche volta al tuo fidanzatino, e adesso le guardiamo assieme. 10 piccole grandi bugie che le donne raccontano agli uomini. Chiaramente è un'indagine di Celebrity Fashion. Di questo sulle donne americane, 1300 donne tra i 13 e i 18 anni, quindi legittimato comunque dalle donne stesse. Mi guardare così, perché comunque sì, adesso voglio che lo metti. Facciamo una classifica di quelle che dicono gli uomini e non finisce. Aspetta, aspetta, adesso voglio che lo metti. Generalmente molto più onesti. Non è vero, no. Ma guardate come già ha preso questa classifica, ragazzi. Mettilo là e vediamo quanto è andata. Aspetta, perché la differenza è che semplicemente non confessano i tradimenti. Però nelle bugie quotidiane, nelle piccole cose, sono le donne che. Qua già neanche abbiamo iniziato la classifica, già si è fatta calda, ragazzi. Quindi c'è una chioccia del bacco.it, perché anche tu c'hai il ditino fremente che vuoi dirmi qualcosa. Qualche bugia piccola che hai detto al fidanzatino. Ragazzi, alla numero 4, altra sempre in quel campo, diciamo, particolare. Il campo particolare che è quello del lavoro, panda, del lavoro, no? questi omissis che sono particolari. Il lavoro, riguardo al lavoro, la ricerca inglese, questa ricerca, dice che il 28% delle donne cerca di migliorare la propria condizione dispensando qualche innocente bugia sulla propria professione. Quindi è quasi un controsenso rispetto a quella alla versione precedente. Magari tu sei una, non lo so, sei impiegata e dici, sai, io ho un posto di assoluta prestigio all'interno della mia azienda, perché e di questi tempi è anche vero. si fa, hai fatto questo ritocchino tu? No, non proprio, avevo l'azienda e poi è bambina e lui non ci credeva. Ci ho un'azienda. Divani, questa sera vedo divani così. Tu non credevi che le avessi fatto, però poi avevi capito che comunque la situazione si è risolta. Quelle frasi da rimorchio, io ho un'azienda tutta mia. Sai, io ho un'azienda. Sembra che invece la donna ritocca all'eccesso su questa cosa, quindi per sembrare più forse autoritaria. Non lo so. Perché poi? Perché così la donna ci dovrebbe. Quando è ovvio, tu non lo sai, dovremmo chiederlo allora, semmai. Protagonismo, non c'è altro. Questa è la stessa cosa di cui si parlava un paio di settimane fa, quando c'era la classifica delle 10 cose che si mettono nel curriculum. Cioè, tu magari sei lì che stai facendo un magazziniere con la tua cinturina per sollevare i pesi, e poi dici che sei un top manager da 200.000 euro l'anno. Ci devo pensare, ma comunque, ragazzi, al numero 3, altra cosa su cui comunque le donne tendono a fare dei ritocchini è questo: il costo del guardaroba. Il 33% delle donne solitamente sceglie di non rivelare il prezzo reale di una borsa o di un paio di scarpe, o lo ma riduce. Ma perché sennò verrebbero massacrati. Qua non gli conteniamo più questi ragazzi. Cosa te vuoi, no, cioè, comunque si ritorna al punto guido, ma fammi vedere quanto prendi. No, ragazzi, ma voi siete subito corsi perché fanno questo, non per non apparire superficiale, cioè non per giustificare manca di guadagno. Ma anche cioè, bello. Aspetta, dipende a con chi stanno parlando nel momento in cui stanno mentendo. sai, con l'amichetta dicono: ah, questa borsa è costata 5.000 quando magari hanno comprato il cinese. All'interno della coppia, no, è cinese, guarda, vai tranquillo. Non costa niente. Un originale. Ma hanno regalato, non buttato dietro. Mai mentito sul prezzo, mai. Assolutamente. Non ho mai messo il prezzo. Ogni volta arriva di piace questo 2 euro. No, diciamo che io spendo tanto, però lo spendo, quindi compro tante cose. Però io non gli ho mai mentito, qualsiasi cosa, o 10, o 30, 40, glielo dico. Comunque tu lo dici, no, lo dico. Serenamente. A un certo punto si legge sulla borsa, tu leggi dolce di banana, no, dolce banana, vedi? Particolare, molto particolare, perché comunque non ci può dire, non si può sentire. Nel mercato, abbiamo già trovato anche delle marche alternative per giustificare questa cosa. Ragazzi, la numero 2 fondamentale, secondo me, è che questa non è del tutto sbagliata: i motivi di rottura con l'ex. Il 38%, pensa, cioè una quantità, secondo me, decisiva, è poco. Non vuole parlare con l'attuale partner delle rivelazioni avute in passato e di non raccontare i veri motivi delle rotture precedenti. Quindi comunque, perché te la scapperebbe? Ma perché con quel tizio? No, lascia stare, cosa vecchia. È colpa tua. No, non me ne parli. Sì, no, poi sono una pazza isterica. Poi scopri che hai un si rovina la vita delle persone. Che fa? Ti rovina il gioco? No, certo. Devi scoprire. Ma scusa, ma anche vorrei allora, perché sei partito? Che per forza le donne non essere quelle pazze. Cioè, può essere anche lui che è un maniaco, ma che ne sappiamo? Cioè, probabilmente è che sei un maniaco, probabilmente. Ma magari ha avuto una relazione passata, gli avrà fatto sta domanda, dice vividi e poi vedrai, capite? Magari lui ha preso questa idea. Come lui. Come lui si sa. Bravo. Bravi ragazzi, bravi, mi piacete così, pronti al riscatto morale verso questa cosa, perché comunque magari ci sono anche rotture dolorose e non se ne vuole parlare, perché giustamente, come diceva Dario, perché andare a pensare sempre male? Magari non ne vuoi parlare. Magari dopo tante cose, certo. È finito l'amore, cioè non necessariamente ci devono essere quelle certo, pazze, certo. Queste cose. Cioè, perché? Perché devi rivelare quei piccoli episodi di stalking che in passato? Perché? Quelle piccole denunce? No, ma guarda, per sbaglio mi è caduto un macete sul suo collo. Può essere anche l'eccessiva gelosia. C'è tante cose, a parte... Giusto, giusto. Ragazzi, la numero uno. È la numero uno... secondo me metterà d'accordo. La numero uno, okay, dai. La numero uno io me l'aspetto. No, io non me la so. E io pure, ma se non è quella la devo dire. Intanto diciamo numero 1, rivelata da, ricordiamo, donne inglesi tra i 18 e i 30 anni, la bugia più detta dalle donne inglesi. Il numero di partner. Una donna su 2 ammette di aver diminuito almeno una volta nella vita il numero di partner. E soprattutto gli inglesi sono bugiati. Cioè che tu hai avuto un tot di esperienze, di comunque un convivio, chiamiamolo, con degli uomini, tu donna inglese, però dici no, guarda, 4-5 al massimo, invece poi c'è questa cooperativa sociale. Comunque, aspetta, la regola del tre. Questa è la regola del tre dei pre-campai. Se una ragazza dice di essere stata con 2 uomini, in vero sono stati 6 o 5. Segna, perché questa la vedi. Se un uomo ti dice che è stato con 6 ragazze, sono state 2. Qua è il premio del campai. C'è che invece io Marco pensavo che la prima fosse stata la voi. Vai. Possiamo parlare liberamente? Te lo chiedo io. Stai evitando cose che non direste a casa vostra. La frase. Amore, è piaciuto anche a me. Ora mi devi dire perché, se mi sto sbagliando. Sta parlando di, cioè, solo di prestazioni. Perché è riconosciuto che è proprio la donna. È vero, ah, vedi. Anche vero, cioè, così mi ricollevo anche al discorso di prima. Sì, ma allora a questo punto invece bisogna pensare. Oppure che la donna inglese è un po' più particolare. particolare di questi problemi. Ah, ma questi problemi perciò abbiamo delle idee. Sono molti, molti, molti. Hanno un bel servizio postale in Inghilterra. Perché tu dici la donna comunque per donna... far sentire l'uomo più. La donna sicuramente. Mente. Donna questa. Mente tremendamente. Non tutte, no. No, ovviamente. Ma di cosa è che ora mi agito, ora mi agito. Ma scappa, scappa. Aspettate, mi interrompo. La gamba sinistra gli serve o non gli serve? Quindi quella gliela potrebbe rompere. Quello è il batterista, spieghiamo. Per no, ma c'è anche da aggiungere che... Non ragazzi, una alla volta, una alla volta, una alla volta. Vai tu. No, no, c'è ancora una cosa da aggiungere. Magicamente, come allora, nel momento in cui quel ragazzo diventa aspettate, un ragazzi. Ex per una ragazza, allora la ragazza tipo va in giro a dire: ah, ma tanto c'aveva l'oliva. Quando tipo, prima non era così. Perché poi diventa un ex e c'è l'oliva. Ah, vedi, dovrebbe sminuire le prestazioni. Invece lei giustamente diceva che dopo ci vediamo dopo gli addetti. Ci vediamo. Ah, siamo... mi sembrava una scappa. No, secondo me è una promessa. Tanti, tanti divani questa sera all'Aus. No, comunque secondo me dipende, però sempre il tipo di ragazza che uno sceglie. Ma certo, allora, certo. Molte volte io mi hanno un radar spettacolare a scegliere delle grandissime ragazze. Di va male. Bene, abbiamo capito. Dolcissime, dolcissime. Le secondo me di questo genere. Non ho capito perché devi mettere sempre questo. Ragazzi, ragazzi, calma. Questa classifica. Ma che accetto la classifica adatta? Quello sì, però. Quello cioè, già, da come uno appare, non è più forse che l'abito fa il monaco. Però secondo me già dopo 10 minuti uno si rende conto con che tipo di. Non è vero. La maggior parte delle altre per i primi metri è tranquilla, dolce. Ma anche quella di Dise, ricordate la dolce, tranquilla. Poi e poi un accetto. Ragazzi, non si sa mai nella vita. No, vabbè, ma ovviamente noi rispettiamo le donne inglesi. Hanno rivelato questo. Noi siamo solo proprio come dire, ambasciatore non porta pena. Quindi comunque noi siamo assolutamente. Ragazzi, il mondo è molto mondo. E dopo questa, prima della sua esecuzione nel giardino dell'Aus, salutiamo. Dopo le cerchiamo l'esecuzione, infatti, che fa le esecuzioni. Vedremo dopo con l'esecuzione che fa molte visualizzazioni su YouTube. Ragazzi, noi vi salutiamo anche per questa puntata. La Gianna Regini ci è andata alla grande, quindi assolutamente bisogna fare un applauso anche ai backside. Vediamo, loro sono venuti a suonare, non sappiamo se dopo questo blocco della classifica riusciranno a fare altri spettacoli. In particolare il batterista è a rischio, diciamo, salvezza, però li rivedremo ancora in giro. Ragazzi, il back.it per seguire queste e anche le puntate precedenti, mi raccomando, continuateci a guardare anche su YouTube nella versione video. Noi torniamo settimana prossima. Ciao dal back e dai ragazzi della cena dei Regini. Ciao.